Ma sì. Oh, via Succis. Va bene, arrivo in quella zona. Arrivi bene, tu, ti arrivi bene. Già sono contento. La sera, tutta la sera già, l'ho tenuto acceso, modulato. E andata ragazzi, ho ripreso comunque un po' lo sguttare. Vabbè che si ripete, dai, vado a prendere le sigarette che c'è gente. Come tutte le persone, tipo il radio. anche il segnale gli era buono. Sicuramente anche il segnale andava bene. Sì, il segnale è relativo per questa radio. Alle volte avevo il basso di segnale, ma quando c'è radio piena, a voi che ce n'è. Vabbè, dai, vado a casa e mi prendo da lì magari, dai. Ho parlato della pausina del concerto, ecco, più mi stava facendo vedere gli apparecchi, me ne aveva fatto vedere pochi, neanche i microfoni, quelli antichi, però nuovi di zecca, proprio lucidi, non c'erano un coso di ruggine, proprio la vernice è bella, sembra uscita dal negozio. Ma sono sicuro che comunque tu stava scrutando, non mi porterà altri barattini a casa. Che ti faccio il colpo di telefono. A me? Sì. Perché? Lo faccio io? Ho capito. Sta chiamando lui. Stai prima tu. Ce l'abbiamo fatto, va. Vabbè. Sempre con lo stesso caso. Quello è dura, Metti 25 euro e andate. Ho messo 10 euro di benzina e 25 di gas. Ho 35 euro su cappuccio. Voglia. Che il gas dura. Sì, ne metti poco, ne metti e ne hai un bel. Ma la benzina anche per 25 euro i buoni. Sì, ne viene buoni 50 la guida. Certo, sarà una bella differenza. Aspetta, vado a cercarmi il collo per caricare il Bluetooth. Non lo trovo. Come ti stavo dicendo, Antonio, che addirittura lì a Muros, del Cargeg, dove c'è il rifornitore del gas, costa ancora di meno. Beh, se capiti lì, la metti. Non è che oggi era domenica, se no l'avrei messo. Un giorno tornavo da Olbia, l'ho trovato aperto, ho messo il pieno. Mi pare che oggi peso 21 euro invece che 25. E peso? 21. E così è, poca roba. Cavolo, con la benzina. E poi non dura, mi sembra, manco una settimana. Poi secondo quanti chilometri fai, benzina si scende giù. Però quando farai un'unia di appunto d'ora, minimo 50 euro alla settimana. Infatti, se non devi più. A volte fai anche altre commissioni e cose e sprechi benzina. Allora, poi c'è un visto che dura più di una chiesa e ne viaggi e viaggi con poco. Cavolo. Andando, vabbè. Una macchina troppo grossa, hai fatto benissimo a fare l'impianto. No, ma poi... ha fatto molte soddisfazioni, ha fatto bene il fratello Antonino a consegnarmelo, ma ha detto che lui ce l'ha fatto lui, l'ha fatto al figlio, l'ha fatto anche alla moglie. Ha fatto benissimo. E adesso mi subono tutti come di meno. Non credo, via, e poi la rete è la stessa, non cambia nulla. Sì, infatti, una roba, invece che farli 180 ci fa 170, ma... poca roba. Se ne ha tutti. Però la macchina già anda come a stessa. E c'è le feste e pucci, non ci arrivo mai a quella velocità lì. C'era l'altra volta che stavo andando al greco, con l'appuntamento col dottore, ero in ritardo, gli ho toccato, 170, ma con certi pezzi sulla 4 corsie e poi ho un po' rallentato. Ma la due subito, abbiamo in te già chiesto. Tu lo sorpassavi, Ah, la stessa pestra? Vabbè, sono cose che si fanno, a cazzarte. Magari tu sorpassi e ne rovi la macchinetta di tutti. Ma per gusto, poi se lo buoni a benzina, camminava ancora di più. Non c'era bisogno. Fa. Ah, tanto ho perso quel CD, te lo ricordo quel CD dove c'è la Dragostea con la roba lì. Perciò? Ha già stato a casa, almeno che Manuela se l'abbia portata a qualche festa, lei dice di no. Ha letto per tutti i CD fuori per vedere se c'era, non l'ho trovato. Che ci vorrei fare? Insomma, tutte canzoni belle, quelle lì potevi farti un bel viaggetto, era un MP3, te lo ricordo. Facevo un bel viaggetto e andava a sempre. E datemi di no. Dove cacchio l'ho messo? Ho bruciato il Bluetooth, non trovo il Bluetooth adesso. Anche tu di testa sei sceso, io qua. Se te la racconto una non ci credo. Cacchio, allora, ma te l'avevo in mano adesso. Allora, sono andato a prendere le sigarette. E c'era una ragazza che le stava prendendo, ho detto, non è che mi fa la cortesia, mi permette la tua tessera, che la mia non l'ha presa bene. Ha detto sì, certo. Ma fa mettere la tessera, io vado a prendere i soldi, convinto di avere 10 euro, ne avevo 20. Mi ha detto, no, guarda che secondo quanti pacchi che devi prendere non ti torna il resto. Allora guardate, c'avevo gli spiccioli, ma c'avevo solo 4,50. Stavo mettendo gli spiccioli e me ne era le valle delle pantaloni, mi ha giocato così, non si è attivo. Ah, sì, stavano scendendo. Ho aumentato la veste di pancia e non mi reggono più. E me qual era il problema? Mi avrebbe preso per Maria. Ho detto, ma dai, tu invece di girarti col posteriore ti giravi da davanti. Avevo anche per il zombo. Ehi, spero che almeno fosse riappartato, eh. Per il domano, ma il di più sì. Vuoi crangaso? Peccato. Vabbè. Non sarebbe scandalizzato, chi lo sa. Ma mi aveva fatto già il favore, Bavara, c'era la vibra sulla tele macchine, che pensava che fosse un pretesto per fare quel lavoro. E se invece non te la sua casa, e avevi tu che è bello, che è grosso, che dura. Una volta, facendo servizio ambulanza, una volta mi è successo davvero. Io dico che i parenti, se non era che si alzava male di parente, sarebbero crepati delle risate. Mi sono proprio varati. No, per parte, proprio scesi. Prenditi le bretelle allora. No, non è che fuori le bretelle, no. Bisogna abbassare la panza. Chi è? Allora bacio la panza. E ci stavo cercando, ma per queste feste mi hanno rovinato tutto, poverto. La cinghia. Ho messa tu, carta era stretta pure, di varani. Cioè, se lo trovo giù me lo tiro al muro, non lo trovo più. Tu le appoggiate che chiedo che le dà cantare il bolsume e non ti mammento. Cazzo, mi sono spostato per cercare il carretto. Allora tu fai memoria, ritorna indietro con la memoria, come faccio io? Guarda che lo trovo. Così. Pensa a quello che hai fatto, dove sei andato e dove ti sei spostato. Io faccio così. Non qua a spostarti, avevo qua, eh. Sai che ti è caduto in terra? Sì, c'è in terra. Dove eri? Grande quanto un cellulare. Un fantasma, non vedi zombie. Ho fatto. È vero? Dentro il cassetto. Lo uso poco. La batteria, cazzo minimo, l'avrò caricata questa estate, ancora la carico. Che a me dura. Dura l'infinità. Ancora carico sino a oggi, immaginate, l'avrò caricato, l'ultima volta forse sarà roba di giugno. Cava. Vabbè, ma lo usi tu, lo usi molto. Già lo uso, a mani libere, da che non si può usare il tempo in macchina. Adesso mi sono buscato anche cosa per prendere il cellulare, perché non lo devi tenere in tasca con il cellulare. Io lo tenevo in tasca e invece non funziona bene. No, bisogna... c'è come quello che c'è a Barravicola, non ce la fai. Proprio c'è il portacellulare con la ventosa, si attacca al vetro e via. E quello c'ho. Quello lui ci vuole, perché non in tasca a volte non prende. No, non si sente la voce, già prende ma non si sente la voce. Scusi, così sono un po' senza fili, senza nulla, la cosa con i fili è la migliore, boh. Ecco, no, questo già funziona bene, no? È grande quanto ce l'ha, e poi se vuoi prenderlo in mano come un cellulare, c'hai il pulsantino e rispondi, come che rispondi con un cellulare? Ma rispondi all'unità, all'unità. Allora, dai all'unità, sì, come un cellulare, oppure ti fa la prima voce. Cabra, cabra, cabra, cabra. Poi c'era anche uno, casa Montaforte, quello lì già, c'era uno ad accendi sigari, che collega lo spinotto, e quel giorno tra pure non lo tocchi più, no, quando rispondi, schiaccia il tasto, delle cose, rispondi, cazzo, ma va un'amplificazione. Va. Ti serve solo come la voce o come Bluetooth? No, quello no, quell'altro non è Bluetooth, qua, è a spinotto, lo colleghi sotto l'uscita della cuffia. Cioè no, neanche, la faccio una pinzetta al microfono, ma è amplificato un bel mezzo. Ma te lo ricordi quello che usavamo in quell'associazione attaccata al telefono per gli scherzi che facevano? Ah, sì. E quindi dove li vendo? E devo fare una strategia. Che cosa ventosa? Ma li prendevano la GBC, me lo ricordo bene, la pagava. Oh, potrebbe chiedere. Era la GBC, mi sa che li prende. Allora, oh, insomma, là è la casa che si è preso mio nipote, è veramente bella. Ha detto che la zona dove sono loro è tutto Sassari, non ce ne manco uno di Muro, Florina, tutti di Sassari sono. Ma tutti tra i critichieri? Ha detto che era preferito Sassari a Mulus. È una bella zona, c'è una bella visuale, si vede la montagna, è proprio bello, è fatta una zona nuova proprio di Mulus, una zona nuova. Sono girato prima, non so se ti Ausi, Natissi, Auri, dice che qualità prezzo non conveniva, invece qua l'hanno trovata bella e poco costo. Adesso prima si usava dai paesi, venivano tutti a Sassari, adesso stanno usando la Sassari e spariscono. E ma sono 10 minuti per qua, 10 minuti di macchina sono. E come ti andrà da Latte Dolce a salire a Sassari, la Matte Sigosa? Sono 10 minuti, fai in fretta. Sì, beh, quello già lo so, sono tutti paesi, tutti vicini, diciamo, 5 minuti di macchina, Sorso, Sindoli, Bossi, Tissi, Usini, anche Itri, Itri sono 10 minuti, neanche pure, dai, 5-6 minuti si assassari. È vero, uno che abitava il mio padre si è preso la villa a Itri e poi ha avuto anche la fortuna di trovare uno vicino a lui che stava vendendo il terreno, si è comprato anche il terreno, si è tenuto l'olivetto, si coltiva l'olivetto, il frutteto che c'è tutto qua. Se l'ha comprato e ha fatto tutto uno, ha buttato giù il muro e ha fatto tutta una cosa, la campagna con la casa. Ma già fanno bene comunque, va, che Sassari sta diventando invivibile. Anch'io però, no, nei paesi no, però diciamo nelle periferie di qua, intorno di qua sì, tipo Santa Arturia, così, Li Punti, Montedignoso, Giulia San Giorgio, cose così, dai. Nei paesi no, Sassari sta diventando invivibile. E poi ultimamente te la rendono anche invivibile perché manco lavorare si può più. Come ti stavo dicendo, Pierpa, questo che abitava nel mio condominio l'ho trovato e mi ha detto, guarda, io ho avuto sempre la passione per la chitarra, per il pianoforte, però ero limitato perché in un condominio non puoi fare nulla. Ero anni che non suonavo la chitarra. Adesso mi sto rimettendo a suonare la chitarra, è una cosa allucinante. C'ho il karaoke, uso il karaoke, adesso mi dico, cantiamo a squarciagola anche con mia moglie, giornate di pioggia, non sappiamo cosa fare, ci attacchiamo il karaoke, lui mi aganta le canzoni. E chi ci dice cosa? Siamo lontani da tutti, problemi non ce ne sono perché non sono in condominio, quindi faccio ciò che vi pare. Infatti, perché è proprio così. No, a comprare solo, a prendere soldi, a comprare il condominio, io non le spendo, perché poi sei limitato in tutto e poi devi pagare il condominio, è come se ti si paga in un affitto come a te, se il condominio, poi d'inverno devi pagare il gasolio, invece a casa la tua, se ne vuoi fare le fai, se no la si può così. E quando vai non vai, capito? Puoi rimandare, lì non puoi rimandare, c'è una scadenza, sei sempre sotto pressione da tutti, vai a rompimento di cazzo da tutti, e le come se non si manca in casa tua che ti comanda le altre. Eccolo, è vero, ma comprare una casa in campagna comporta anche il fatto che se c'è una caldaia ti si rompe, devi pagare tutto di tasca tua, non è come il condominio che ti si dividono i soldi, manco te ne accorgi. Se ci sono i pro e i contro, dai. Ma già, la caldaia di un condominio costa un parecchio milione più di una casa tua piccola, perché con una caldaia, diciamo, piccola, con 1200 euro, a posto, e se succede un danno al limite sono sempre, tanto se si rompe una caldaia condominiale sempre che ti metto 100 euro a testa, 120 se non sono 140 muro te le pone, e ti vivi, diciamo, se non ce li hai al momento lì li devi togliere per forza, se non ce li hai al momento puoi rimandare a quando ce li hai, se ci sono dei pro e contro, che poi i costi di una persona da solo sono di una famiglia da sole sono più limitate in casa proprio, se ci si guasta anche una lampadina per dire tra cambi tu e poi, e di là invece ti cercano per qualsiasi cosa, cioè sono diverse le cose, dai. E poi se fa contare che però anche là, se non ce li hai al momento e puoi spenderli in domani è ancora meglio, e di lì invece che la tua puoi fare quello che vuoi, perché e come hai detto tu, se ti vuoi cantare non lo puoi fare perché c'è sempre quello che ti rompe le palle. E io il karaoke non ce l'ho a casa, lo potuto usare più qua perché mi è successo che una volta stava piovendo in pieno inverno, verso le 6 di sera stavo cantando io, Liliana e i bambini, e allora erano piccoli, tutti cantando, una serata diciamo così, movimentata, ci stavano divertendo, e hanno suonato laggiù e ha detto che doveva studiare la figlia, doveva dare l'esame all'università. E ho detto, vabbè, ma c'è anche un orario. Io, se tu me lo chiedi per cortesia, un conto, se me lo chiedi di prepotenza, allora cambiano le cose, perché c'è un orario che io devo rispettare nel condominio e non sono certo le sì. E mi ha detto, no, te lo chiedo per cortesia, se è così, vabbè, se me lo puoi abbassare o spegni addirittura, perché che cosa abbasso? Quando cantiamo noi ci piace cantare a voce alta, no? Abbassa con la bassa voce, come far cantare a bassa voce? Infatti, ci sono tutte queste cose che magari uno si pensa bene, ma poi un guasto di una cosa come dici tu e tanto paga una parte dall'altra, ma i costi sono limitati, poi ripeto, per me non me ne frega niente di quelle cose, a un certo punto preferisco anche pagare, però non manco molto quello che mi piace. Ah, quello, senza ombra di dubbio, la libertà è una delle poche cose che uno ha diritto, anche se tante volte può avere, perché vive attorno agli altri, ci sono tante persone, attorno a lui ci sono tante altre persone che sono da rispettare, quindi uno cerca sempre nei limiti del possibile di rispettare. Vabbè, in campagna è un'altra cosa, per parlare, non è che però questa muro la casa a fartela così, se uno non può farlo va in condominio. Io La vedetta qualcosa a parte ce l'avevo quando ho cominciato il condominio, quindi ho cominciato bene, ho dato una bella cifra, poi ho continuato col mutuo. Però diciamo che penso che una casa così in campagna costa quanto ho pagato la mia. Avessi avuto qualche soldino in più magari in campagna me l'avrei fatto, però non c'avevo né terreno né nulla, non c'avevo nulla per partire qui. E per dire quel mio amico, quello di Usini, che ha preso la casa Usini, si è preso quel terreno anche per non costruire case vicino, lo sai. C'hanno lo pozzo, tutto quanto ho fatto, solo che c'ha rudere, diciamo che era un grezzo anche che rudere, e se l'ha tutta aggiustata a suo piacimento, sta fatta veramente bella. Ha speso un po' di soldi, ma era 300 metri quadri in questa casa. Ho organizzato con calma qualcosa da fare la terra. segnale questo apparecchio un po' più avaruccio. Piazzaluna, per esempio, oggi stavo ascoltando la 27 su Vice Vittoria, mi sembrava di un lavoro, sembrava dentro casa, torno dall'apparato e lo sento, però diciamo, ma dentro casa sembrava, e quindi stavo pensando se avrebbe avuto la M, il trasmettitore, però quello lì non ce n'è altro in giro, possono dire quello che vuole, ma quello non ce l'hanno, quella di scrapete. E io un giorno devo far vedere come metto tutto a posto, a farlo vedere già in due bisogna scenderlo. Quello già è un trasmettitore, quello già pompa col microfono suo adattato, perché quello non ha stanza lì. C'è la bella solo questa verde, e quello lì, e quello è un tecnico. Adesso non ho una più, per, c'è la patente, però niente. Lo chiedevano anche in prestito di radioamatori che ancora sono in attività. Quello lì, però non c'è la M, non lo potevo trovare e infilarcelo dentro il ricevitore, peccato. Però c'è tutte le frequenze di radioamatore, quello te lo devo far vedere. Anche a Pierpaolo, e non è Pierpaolo. Se vieni, capito, non ti faccio vedere gli apparati, ci mancherebbe. No, già gli farò vedere qualche cosettina con lì, qualche microfono. Riprendi già. Bravo. Cascia e Moli non sono molto d'accordo sulle nostre passioni, però noi continuiamo ad andare avanti. Al ritorno volevo attaccare l'apparecchio, non c'è stato verso, hanno voluto sentire in due equalizzate, hanno voluto sentire la pausina. Ciao. Sì. Ecco. Avanti, con la buonasera, Massimiliano. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. Ciao Massimiliano, dove sei diretto? Sono parato ora a fare una commissioncina veloce, scendo subito. Va. Da bene. Quindi capri. Ok, ciao Massimiliano, buonasera. Se mi stai ascoltando, ti ho ascoltato molto bene, oscillante, però ti ho ascoltato. E ok, e io, ripeto, aspetterò a usare quelle cose lì. Anche aspettare, guarda, in ogni cosa c'è una pazienza che aspetto e tu manco te l'immagini, però su tutti se ne sarebbero fatto salire, vedi, i miei progettini dei cuori, dei tralicci che ci devo fare nella soffitta a uscire dalle tegole, poi fatto il tetto nuovo, con i pezzi che escono, tipo il fumaiolo, con i pali installati, però quello è una roba che faccio in seguito, e poi mi ascolteranno, allora come dicono che le robe del baracchino, che i certi microfoni sono per baracchino, poi farò vedere anche i microfoni per la roba radio amatoriale, riprendi già, prendila per Paolo. Va. Ehi, ne ho visto di quei bei microfoni. Quel Turner mi piace, il Turner più 3 era quello lì da Palma, vero? Quello è l'M più 2 e l'altro è l'MB più 3, perché poi mi messo il coso, non mi ricordavo la sigla, l'MB più 3 ed è alimentato con una batteria da 7 volt sia l'M più 2 e l'M più 2 ne ho 2. Così con quello lì c'ho quello che invito, quello mio, che è l'MB più 3, che poi praticamente sarebbe il Mike da Palmo di quell'altro che ti ha fatto vedere del plus 3 da Tavo, e poi c'ho il più 2 che ti ha fatto vedere 3, ti ho fatto 15. E l'altro che era attaccato all'apparato, questo qui che sto usando è un Intec che è molto bello, lo stesso che dicono Roberto, mi dice sempre di abbassare, purtroppo è fatto così. Riprendi che fa. Ma Roberto lascialo perdere, è fissato con l'abbassare. Buonasera Massimiliano, mi hai sentito? Buonasera, ben ascoltato anche a te, dai. Mi sembra che ci avessero sentito anche Antonio. Oh Gianni, capri 2, l'importante è che dopo quando entri il 27 non spari 1000 watt. Negativo, io diciamo che quando se riesco a prendere la patente, me li faccio vedere solo in mostra, entro devo dare l'antenna tua, ma non ce l'ho fatta, c'era troppo buio. E c'era buio già, è appiccicata, se ne è andato indietro in piazza, si sveglia, è appiccicata al tetto. Adesso in questi giorni mi chiedi libero, ma perché non ne ho approfittato della sala? Già, ogni tanto qui mi avvicinava, quel tetto, io la casa l'ho tutta restaurata, perché era una casa vecchia, tu hai detto che restaurare, già ci ho fatto, però il tetto è rimasto perché non ci sceglieva un guscio, non l'ho toccato anche, nessuno li avevo investiti in altre cose, cioè anche il garage, tu eri parcheggiato, quel garage con la serra, quello è il mio stesso. E niente, non l'ho fatto già perché non ci scendevo ma con un goccio, quindi però se ci salgo qualche volta che metto in piedi queste tegole, qualche uno fa cracchi, ne ho procurato di scorta una trentina e ce li ho, però se la fare lo faccio, che ho fatto il disegno e faccio spuntare al centro un traliccio per la direttiva o queste cose, però quella roba lì si fa quando c'ho di tutto in mano, che io ho parlato anche con gente del ministero per telefono, che ci abbiamo fatto gli auguri, tutto questo, e sicuramente questa roba si farà nella sessione di ottobre, niente, sto parlando anche con Roberto e con Natalino, però non più di tanto, io se riesco a arrivare con un watt, metto un watt, però per farci vedere che alle fiere vado se ho la possibilità come adesso e acquisto le linee, perché acquisto già per anche per connessione, te lo dico perché ci sono apparati CP, io faccio vedere che posso fare anche io, però le tengo lì già e senza sparare, o anche come lo faccio, ci arrivo come lo faccio a Sassari. Non penso. Ok, se l'ha fatto a Sassari, era bastato anche un portatilino modulare, un portatilino e basta, senza, hai capito, fare il braccio di ferro, che è una cosa, che è l'ultima cosa che ho voluto sempre fare, come ho detto, ho qualche persona, no, nell'ambito di CP e di collo l'ho dovuto fare, purtroppo anche io sono fatto di carne e ossa, signori, come siete fatti voi. Riprendi Pierpaolo. Con i soldi, ricchezza secondo me è quella che ha all'interno una persona. E poi già soldi, io c'ho il lavoro mio, hai capito, qualche cosa la metto da parte, però diciamo che ne ho speso per accontentare il grande, perché lui va a suonare, la roba ci vuole, hai capito, sempre speso, poi me ne va una roba, dice che è migliore, si compra quella, l'altra non ha verso perché me la svalutano qui, là io sempre, capito, io e il mio gringellone abbiamo sempre contribuito per Ormai non l'ho mai visto questo brutto carattere che dici che hai. Oh, ti vedo come una persona molto buona, affabile, ospitale, cosa te devo dire? Boh, ti vedo un bel carattere anzi. Io di solito a pelle riesco a capire quando una persona è una persona che si può frequentare o meno. O irascibile oppure a pelle lo vedo. Ho ripreso adesso. Allora, avanti. Beh, allora ero sceso un attimino a fare là una commissione. Cava cava. E avanti già, niente, io adesso me ne rientro. È tutto roggio, da. Pagava, ma si vede. Stavo dicendo Capriduro. A me piacciono le persone semplici, non mi piacciono quelli con la puzza sotto al naso. Però tu stai dicendo che nel mito con un carattere mite, con un... è proprio quello già che poi fa scattare il pallino, si dà un decante bravo e macco e se ne approfittano, come ti ha spiegato questa è stata la storia del Puma, perché mi vedeva con un carattere, sono arrivato tranquillo, poi questo carattere già è cambiato come il giorno e la notte, te lo detto cosa succede, capito, doveva essere troppo bene, non strappo i denti. E mi hanno detto tu non fai parte della categoria, no, io sono una persona onesta, non faccio parte proprio di quella categoria e se queste cose non mi vanno, e allora già che divento quel caratterino, hai capito? E che ti ho detto stasera con delle persone che si possono permettere a farmi il doppio gioco, quello già non lo permetto, o mi sono zitto, capito, mi faccio un fosso e mi metto dentro, oppure come il gatto le pure unghie, riprendi? Beh, certamente che sì, cava cava. Antonio! Cava, volevo dire una cosa poco fa, ho lasciato fare il PSO. Questo Capriduro l'ha visto come è fatto il Magnum? Non so, Capriduro il Magnum non l'hai mai visto, adesso no. Capito già, c'è un po' più di correme, aspetta che mi regolo qui, che non riesco lì, che non elimino questi pulsantini. E ripeti già per cortesia. Ho detto, se il Magnum l'hai mai visto come apparecchio. È negativo, già io di Ugo, diciamo che non mi sono dedicato oltre, io cosa ci avevo, avevo la 48, nuovo di Pax, come ti avevo detto, e l'avevo dato al marito di mia cugina, nuovo, tre volte l'avevo acceso perché l'attività c'era ancora l'antenna, era ben buono, stavo più modulando, si era gestionato, qui l'avevo dato a un prezzo, hai capito? E ci ho perso, allora ho pagato quella cosa costava dall'an 48 e mi sembra 180.000 lire, in lire allora io l'avevo comprato in lire già, e ne ho fatto mi sembra un 140, non mi ricordo, era proprio nuovo. Poi il Magno non l'ho mai visto, di quello di Gala l'avevo visto che l'aveva questo tipo che abitava a Proare, non so se abita ancora a Proare, si chiamava Luigi. Abbiamo fatto delle chiacchierate, una persona favolosa che diciamo che ho dei bellissimi ricordi, poi altri apparecchi nuovi li vedo nei cataloghi. Cioè. Quando vai sul computer guardalo, Magnum S9. Come se ne innamora. E questo con cui sto parlando adesso, ti piace la modulazione Capri 2? Bellissima già, bellissima, io ripeto, qualche duno quando entrava in garage si puntava sempre all'arguscio, ho detto, quella parola di me, no, ho detto, no, non lo accende però, ho detto, il signor apparato, mi ha detto che ce l'hai, e non trovo mai modo di mettere a posto, e poi ti ho fatto vedere il voi che sarebbe il Somercam 340S, quello lì, e quello è un bel apparato, e dico, quello vuole mettere a posto la trasmissione. Te l'ho detto, portare la Massimiliano, te la metti a posto quell'Argus, è un peccato, è molto bello, è piaciuto molto anche a me. Chiedi a Pierpaolo cosa gli ho detto io. Ok, poi non hai visto il contact, perché qui li accendo lì, mi pesano, non hai visto la riscrappa e ci vogliono due persone a portarlo, quelle sono i trasmettitori. Però vedere che io dico che non serve a niente tanta potenza, tanta potenza non serve a niente, poi quando si fa l'attività, capito, si parla fuori, allora è giusto che si usino certe potenze, non per andare a Sassari a fare cosa che non ritengo giusta, riprendi già. Infatti, ben detto, cara Gaba, vabbè, comunque io diciamo che mi difendo bene lo stesso, ho degli apparecchietti ma che vanno tutti bene, sentiti tutti, stasera avevo anche il Milan e ho messo in moto un po' tutti stasera, adesso un po' uso questo qui, che se no l'altro mi consuma troppo a battere il microfono. Lo uso troppo e quindi mi consumo un bel. Ma questo qui va alla grande anche perché mi sento come esco e quindi a me mi sta bene così. Oh signore, dai, se mi fate riprendere un secondo. Avanti Nasa. Dai, sono arrivato qua al parcheggio. Dai. Io passo il correttivo mentalmente e mi assento per un po', dai. Una cosa capito, fai bene. Tanto gli apparecchi radioamatoriali 27 come prima cosa non si possono usare e poi neanche i lineari grossi si possono usare il 27, nessun lineare, deve avere 4 watt il 27 e c'è gente che per parlare a 500 litri ci butta sotto 1000 watt. Detto questo vi saluto a tutti, dai. Sì, papà, è stato un piacere, sento che la stagione mi sono riprendere, noi siamo qua, niente, non serve a niente, come che quello deve andare a portare la lettera e dire il tiri, può fare benissimo con un amico. No, sono io quello. E se voglio fare guerra faccio. Non l'ho fatto in tutto questo tempo e non lo farò mai, però le cose me le compro, giusto come si chiama, sono le bombe atomiche che ci chiamano, però il miele deve avere, ecco, ce l'ha questa roba, e quindi capito, è una cosa che devo capire, che infatti un 27 uso un apparecchio che un 23 canali, io sono usato un apparecchio 23 canali, quindi non mi interessa di niente, di attaccare nulla, di attaccare la gente, neanche il 40 canali che qualche volta attacco il 78 plus, ma manco per le scatole, già mi hanno visto che apparecchi ciò, se vuoi lo posso fare, però no. Non dire tanto, riprendi già. Lei ha capito, sì, vabbè. Te volte ti spingono a fare cose che non vuoi fare, anche perché quegli apparecchi lì consumano molto. Anzi, saluto Massimiliano, dai, e ci sentiamo dopo, spesso è cosa. Vai, per fatto di saluto. Ciao, ciao Massimiliano, ci ascoltiamo dopo. Infatti ha sbagliato, capito, ma se vuoi parlare con per parlare, invece quello era Massimiliano. Ciao Massimiliano, ci riascoltiamo. Vabbè, ciao, buonanotte a tutti per il momento, dai. Se ci siete riprendo più tardi. Sì, dovremmo essere qua. Capri 2, cosa ti stavo dicendo adesso, non mi ricordo più. Ma che fanno consumare anche un sacco di luce queste cose qua, cosa riusci a fare? Io a me non mi interessa. Mi piace modulare a me, non fare la guerra con nessuno. Io sono così, io sono pazzi, però dico, se mi metto a vedermi, io rispetto e voglio rispetto già, rispetto perché so anche dove dovrei andare, capito? E mio figlio quando deve fare cose, che si deve acquistare cosa, che è incontinente, non è che piglia in un attimo e sopra, la Argentina piglia l'aereo, capito? Lo stesso potrei fare io, se non trovo, però siamo coi piedi per terra. Mi piace avere qualsiasi cosa già di queste cose, perché sono un appassionato, guarda che non ti dico, però mi piace molto il rispetto verso il prossimo, però te lo metto già che se uno manca di rispetto divento una beva, se uno lo voglio trovare lo trovo in capo al mondo. Sono fatto così, io ho queste voti, poi uno può dire le calcolità, non ha la maestra masco, ma non è così. Non è così, perché se uno ti vuole lasciare perdere, lascia bene, però se uno guarda ti vuole fare dare la caccia, riesce a darti la caccia, riprendi per fatto. Sono già, ma come tutti però, prima bisogna un po' che tu manco ti immagini, capito? Faccio fare lo scemo quanto, però guarda, è una cosa, proprio prima di arrivare qua a certe cose, sono molto diplomatico prima, sono molto diplomatico, e ho le mie nozioni di tante cose, capito? So come, io ripeto, sono tanti anni in frequenza, non ho usato mai dei lineari grossi, o cioè una piccola cosa che dà pochi watt in più, giusto per alimentare l'antenna, perché sennò mi ascoltate più pio, però non diciamo che se ero fatto a Sassari, questa roba io non l'avrei usata, capite? Ti aumenta di un po', già lì, ho detto anche che apparecerò una vita. Mi è molto utile perché la posizione, già lo so, dove abito, non mi permetterebbe di arrivare con la voce brillante a Sassari, però a Sassari io, anzi di averne quattro, il baracchino mi sarebbe bastato un watt, ripeti già. Lo so, che tu devi passare la montagna. La montagna va da un momento, un momento va dalla montagna. È proprio così, già la posizione è quella purtroppo. Se avrei abitato a Ossi era stato anche perché con la barra mobile ho visto la differenza. Ho modulato con Antonio, con Momolo, e lo sentivo al parchetto, pensa che mi arrivava, ti superava a te anche. Però da qui tu vai a Santiago non più riesci, e lui rimane con un segnale molto molto debole, però riesco a ascoltare lo stesso, però come porto la BM in punta lì cambia tutto, cambiano tutti i risultati dei segnali, e così, e purtroppo sono questioni di roba tecnica, questioni di posizione, di tante cose, capito? Che a spiegarle così non ti saprei spiegare. E niente, rimetto il cambio a Pier Paolo, vai. Guarda quello che sono te, no? Hai capito? Visto che c'erano un bel antenne di macchina, ma qual era quella nuova, quella caricata che ci aveva tutto il filo attorno? Quella nuova, ma con piazzata già, perché ho utilizzato parte della base di quell'antenna col filo per rimettermi la mia vecchia Sigma, però già che quella vecchia Sigma piazzata lì è una roba già, la tua è alta, ma che quella lì non scherza, quindi piazzata in macchina mi dà fastidio, forse perché sono passati tanti anni, però prima sono 850, ce l'avremmo piazzata al 188, cioè non quella che quella che ci aveva la base più grande, e più alterano già, e più bene andavano, e però poi ho iniziato anche io a passare alla frustanera più corta, però l'irradiazione dell'antenna è limitata, capito? L'irradiazione è più lo stilo centrale lungo e più irradia. E questa è solo piazzata così per fare una prova, si può dire. Poi non è che sto sempre con l'apparato in barra M, che è raro che mi piazzo l'apparato in barra M, prima erano altri tempi già, riprendi. Vabbè, una volta che c'è l'impianto, quando ritiri opportuno farlo, lo fai. Se per dire io a volte uscivo, mi fumavo una sigaretta, mi scendevo in macchina, mi scendevo l'apparato, mi fumavo una sigaretta e facevo una chiacchierata. Che poi sono stato costretto perché quando ero a casa di mamma c'avevo l'antenna sul tetto, c'era uno del padre che rompeva le scatole, lo disturbava il televisore e me l'ha fatta togliere mamma. Però in macchina già me l'ha attrezzato bene, quindi mi modulavo dalla macchina, me ne scendevo giù e modulavo lo stesso. E la stessa cosa che è capitata a me già, che allora c'erano i vecchi televisori a valvole, c'erano, e gli altri anche i primi a transito non è che erano, diciamo, allineati e tarati che per il TV hai. Comunque l'antenna io l'ho usata già durante, diciamo, le ore di trasmissione televisive, tipo dopo le 20:30 o anche qualche quello prima non si modulava più, non si modulava e niente. proprio evitato, perché poi a quell'ora proprio perché non c'erano quei programmi come ci sono adesso, la gente di sera si metteva al televisore e erano qui due canali, aspettavano, ma c'era qualche puntata che stavano seguendo e non credevo giusto di fare interferenze, riprendi. Io non so se tu l'hai mai appurato, però io avevo un televisore, ricordo Indesit, ci aveva gli scatti, no, per le frequenze, non so se te lo ricordi, c'aveva quel manopolone con gli scatti. Io prendevo anche TV Estere. Sì, io già una volta, e babbo si è anche incavolato lì, perché poi c'è salito l'antenna, vediamo antenne due e altre TV Estere già che poi il segnale spariva. Allora all'epoca ci avevamo una TV bianco nero che era pesantissima già, valvole, una condola avevamo, e che guarda c'era un tecnico solo a Sassari che si chiamava Silvio Ricci, non so se si trova, le auguro se si trova lunga vita, che era l'unico tecnico già che ci metteva le mani dentro, un barrasone di roba, un televisore pieno di a valvole, guarda una cosa, adesso non so che fine abbia fatto, c'è il laboratorio in via Moroni poi, ma noi lo conoscevamo molto prima già, e ti dico che se non era quello, questa televisione nessuno era capace di metterci in mano, perché era una roba mostruosa, e ci aveva sul lato destro, guardando la riposa, sulla torre c'era proprio questa roba nella sintonia come stai dicendo tu. Faceva gli scatti, tac, tac, tac. A volte prendevo anche televisori esteri, mi pare che c'era anche Antonio. Di la tua, io, anche se sei giovane, non te ne ricordi questi televisori sicuramente. La voglia, quella bianca e nero. E per accendere bisognava, ne avevamo uno noi e bisognava schiacciare e aspettare che si accendesse. Dava le valvole. È vero. Io mi ricordo, Capedu, che per fare cambiare il televisore a mio padre e a mia madre, dopo 21 anni che ce l'avevano col televisore, mi ho dovuto staccare i fili interni dell'elettricità, proprio la corrente, per fargli capire che c'era rotto. Allora la noce, ma come questo televisore non accende? Come non accende? Vabbè, lo cambiamo, lo prendiamo in bianco, lo prendiamo a colori direttamente. Va. Io per averla a colori gli avevo fatto questo scherzo. Non l'abbiamo comprato a colori ancora già. Poi erano usciti quelli a transistor, siccome questo mi pensava che tu me ne puoi dare conferma nei vecchi televisori, no, ogni tanto quando scaldava già si vedeva il quadro scendendo, allora si andava la mano proprio verticale, si metteva a posto, dopo un po' ci dovevi riandare a stare. E allora erano usciti questi a transistor che erano più affidabili. posso dire coso, come si chiamava quella lì? Comunque le avevo tutte anch'io, quelle che ho nominato le avevo tutte anch'io molto bene. Seguivo anche un programma che c'era Telecosa Smeralda che parlava, erano dei DJ che si facevano vedere in diretta mentre mettevano i dischi a Radio Costa Smeralda. E le vedevo anch'io tutte quante quelle televisioni. Io poi sono in zona alta di fronte a Monte Oro, quindi ti puoi immaginare come prendevo le televisioni. Diciamo che anche adesso sono proprio di fronte, infatti c'è il tecnico che noi potremmo fare a meno dell'amplificatore, perché dice è spreccato l'amplificatore, cosa ne fate? Siete proprio di fronte. Ma qui non è così già, io ho messo le antenne del digitale che usavo, lo sa che io ci ho speso tra antenne e amplificatore, le migliori che c'aveva per i 130 euro, ci ho speso, e le antenne sono in soffitta già, perché qui non si vedeva, si sono viste due o tre giorni, poi è andata a sparire, ritornava, e non si vedeva più nulla se ne andava più il segnale. Io non potevo comprare di nuovo la parabolica perché l'altra cuia mi sta a riattaccare, c'è una la stampa, c'è la volta quella mite che mi dava i gradi, e sono andato via Conforano, ho comprato la nuova parabolica con le cose per il digitale via Sate e abbiamo risolto, perché qui giorni fa non si vedeva più il televisore. No, quella roba del telefono Smeralda era coso, proprio il fondatore che faceva il DJ all'epoca, lo seguivo anche io il programma, Cesare Peruzzi, ti ricordi? Che poi l'avevano rapito, mi pare, è successo qualche cosa, adesso mi ricordo, sì, Cesare Peruzzi proprio. L'avevano rapito all'epoca, poi c'era cosa assieme a Cesare e Gianna Pronzatti, quelli erano dei fondatori della rete, dei primi fondatori della rete televisiva, poi l'altro non me lo ricordo il nome, che però c'era che canale 48 da Caragianus, all'epoca c'ero anche andato con un amico mio qui dal municipio che avevo fatto le riprese lì, e guarda, i canali erano quelli, io riuscivamo a vedere già, però non più di tanto, e qui si vedeva anche delle cose dell'altra, più della RAI si vedeva, però la RAI è stata sempre una roba per muroso negativa, e perché il segnale non è arrivato mai forte per poter, diciamo, dare l'opportunità di vedere la televisione come si deve. Infatti ancora adesso qui c'è gente lamentosa che con digitale in certi punti si riceve, però già sempre con le antenne se sparisce. Fai girare Antonio, già riprendi. Io da quando le ho mandate le abbiamo messe fra carro con le antenne lì. Abbiamo visto, vabbè, vedevamo bene prima, poi diciamo che si sono tutti arrugginite, le abbiamo cambiate, le abbiamo messo le fraccarre, vanno molto molto bene con le antenne lì. Avanti anche. Ti volevo dire, non te l'ha mai preso il divertimento? Come si accendevano dopo un pochino quei televisori a bianco e nero a valvole? Non ti sarebbe ammigliato il divertimento di salire tutto il volume, poi Guido andava e chi ci aspettava un po', ci misurava il televisore tutto il volume. No, Anto, quella cosa la facevi tu che ripieno la peste. Avanti Capri, ma per Paolo ha finito di passare. Il divertimento. Epa. No, quelle televisioni a Francia erano micidiali, perché molte volte io li ho visto in certe case a pigliare fuoco, perché col calore lì si arroventavano, cioè bruciava i fili, hai capito? Molte volte qualche uno di quelli primi ha preso anche fuoco di quelle, e la notte era buona, mi ricordo che proprio. proprio non so, che poi aveva lo stabilizzatore, già, te lo ricordi? Mi ha preso la parola tua, te lo stavo per dire io, quello lì, il carrellino ce l'avevo anche io così, ce l'avevamo così a casa, con due vetri di cristallo, con le fentose che attaccavano il vetro, me lo ricordo ancora. E il trasformatore, quello quadrato, si metteva sotto con la lucetta rossa. E infatti molte volte partiva quello, partiva, lo stabilizzatore, capitina, è andato molte volte, è da comprare, sono e compro e niente, poi la venuto il tecnico, guarda che può funzionare anche senza, serve detto, per qualche sbalzo di tensione per far partire le... E siccome c'era la tipo di ragazzi, molte volte che avevo sentito questa roba già che era scassato, già la collegavo direttamente alla corrente. Infatti erano fucili, erano solo per i temporali, per queste cose qua. Stabilizzatore di corrente sarebbe quello lì. Cava cava Pierpaolo. Riga, dimmi. Hai finito di telefonare, Ciaramidus. Beh. Ah, cosa? Hai finito di telefonare? Ecco lì, sì, ho finito un bel pezzo, stavo ascoltando. No, pensavo fosse ancora il telefono, riprendi tu allora. Riga, su quel televisione io mi dilettavo ad aggiustarli, da lì facciamo qualche cosa, poi io ho parlato tutto. Ma poi anche io, diciamo, a cui arrivo... Un attimo di bianco. C'era la valvola che faceva funzionare in verticale con le rughe lì, però ormai l'avevamo già dismessa, era troppo tardi e qualche giorno ancora c'era in commercio, perché le belle marrone avevano avviato quella transito, diciamo che si guardavano più raramente, però in certe case sapevamo quando era la valvola a cambiare, si andava, però ormai erano uscite le altre, la gente poi a questo punto di vista non è che sappia molto, perché io l'unica cosa che ho fatto per farlo cambiare è staccare i fili elettrici, a mio padre se no non lo cambiava mai, per raccolori ho dovuto staccare i fili elettrici. Ok, no, ripeto, perché tu ultimamente nel migliore dei film c'era sempre il quadro che ne scendeva, Pierpaolo, so se ti ricordi, e c'era questa cosa del verticale, sempre nel dovevo, ogni tanto uno si doveva alzare a stare regolando il petto neve, e poi Papa ha preso e l'ha cambiata, ripeto Pierpaolo. Io me lo ricordo, le strisce faceva, dovevo regolare il contrasto, un casino. Tanto a collezionare, babbo mio invece era appassionato a manica di mamma che ce l'aveva e aveva il giradischi ed era anche funzionante, la radio lo stesso funzionava sempre a valvole e c'aveva MV, NV, non so quante frequenze va via, frequenze aerei, tutto quanto prendeva, era un ricevitore praticamente. Pigliava anche Tombabu, il corso della marina, pigliava, c'era cioè, Leon del Conte, c'era un sacco di... E io ero affascinato di quelle radio, Pietà, c'era l'occhio magico, non so se te lo ricordi. Sì, lo chiamo quello verde. Perché non me lo ricordo, lui, di quelle. Sì, io ero affascinato di questa roba, la piccola, che si accendeva questa... Me l'aveva regalato, un mio amico se me l'ha regalato, metà verde, uno che imparava, ce l'ho e non solo se è in garage ancora, ce l'ha bevo, è una cazzata, eppure purtroppo quello faceva una luce non indifferente. Noi che mantengassi, c'ho degli schemi di quelle radio, ognuno che viene, se interessano, si fa le fotocopie, ne ho tanti di quegli schemi. Poi nella città una, per fa, non so se vi ricordate, adesso sto parlando di un paio di... In edicola, costruirla, gli ho pigliato il primo fascicolo, ho visto come l'aveva fatta tutta quanta schede, che quindi la scheda la entri in una dentro l'altra, allora non li ho più comprato, io pensavo che era la classica radio a costruirla per peso con i componenti. Ah, pensavo che ero io solo allora che ero malato di quelle cose, invece ecco, se ce ne erano oggi allora all'epoca. Io all'epoca ne facevo, ero appassionato, ne facevo un sacco di cose, poi quello mi costose, non ce n'è manco una barata. Ma io adesso diciamo già che non sto spendendo, non ho speso più soldi per questo, perché le radio ce le ho già. Ho comprato solo questo, il ricevitore della IAESU, lo 030, poi la riscatta ce l'avevo da un mese, le altre ce le avevo lo stesso da tanto tempo. E così poi mi ho comprato un altro portatile di banda e niente, non è che ho fatto tutte queste grosse spese, l'antenna, perché l'altra è rovinata, però c'è gente che acquista, io sono contento che... Però anche come stavo dicendo l'altro giorno con tu, mi ho detto quando ne hai tre, te basta, se abbassano, tanto quando moduli li usi uno, però io li tengo per collezione, non è che tu l'hai visto già, che potrei modulare anche con apparecchio meglio di quello che sto modulando adesso, poi sto modulando con 23 canali, li prendi. Cavale così per fare un attimo. Prima tutte queste cose facevamo, c'erano, vabbè, adesso fischiarlo qua, prima c'erano questi uomini qua e a noi ci occupavano queste cose, adesso non ho capito perché sta fischiando, qualche cosa che non va, vediamo un po', ecco qua, adesso ragazzi, adesso non sentirci. Anche un po' così, eh? Sì, però io ho dei listini, qui c'è un libro dei CD. All'epoca, il toccai 5024, cioè non vi dico balle perché ci sono alcuni apparecchi compresi, costava 360.000 lire, non era accessibile a poi, ho iniziato a abbassare il prezzo, però io quando ho acquistato l'altro baracchino, Capri 2, che l'avevo pagato 80.000, lui ne costava 160-170.000 lire, ti davo in omaggio un'antenna da GBC. Allora l'avevo passato però sempre 170.000 lire costava. Sto parlando qui nel 74. Capa, quindi tu ti sei messo il nominativo Capri 2 da quell'apparecchio? Poi è andato a finire quando ci siamo traslocati e è stato buttato in mezzo alle cose che abbiamo quando abbiamo traslocato. Guarda, lo sto sempre cercando a comprarne uno e in anni non sono riuscito più a vederne uno perché era un 5 canali, era, che aveva un quarto di trasmissione eccezionale, però io, siccome gli altri avevano 23 canali, per poter averli tutti mi avevo fatto fare una quartiera esterna dalla buonanima di Panzer, che era il tecnico che c'era in Via Galileo Galilei, e li avevo tutti quartati, qui c'avevo anche altri canali e l'ha diventato a 28 l'apparecchio. Ho fatto questa quartiera esterna e modulato in tutti i canali e c'aveva 5 watt di uscita e c'aveva. Guarda, è stato buttato via per sbaglio, per buttato via, era preciso la Catalina, Catalina ne ho due, però le devo anche a posto, era, guarda, ti mi fanno vedere le fotografie, e mi ho messo quel nominativo proprio per quello mi ho messo, e niente, mi dispiace, se lo trovo uno, io alle fiere non ci trovo, però se lo trovo me lo compro. Sarà un'impresa, sarà, perché non se ne sono neanche più sentiti, sono spariti tanti, difficilmente credo che si possa trovare un'altra cosa così, a meno che non si riesca a risalire a qualcuno appassionato che ce l'abbia ancora e che se ne vuole disfare, cose così, ma penso che siamo pezzi rarissimi ormai. In internet c'è un collezionista che ce li ha tutti e ce l'ha, l'ho visto io che ce l'ha, infatti a poco gliel'ho fatto vedere il baracchino e anche lui ha detto chissà dove è andato, lì come abbiamo smistato la roba per fare che c'è il casino, quello traslochi, questo lo butto, questo lo porta alla casa nuova, questo va lì magari in qualche busta, in qualche cosa, perché poi quando mi ero arruolato l'avevo bene messo da una parte e niente, poi quando ero rientrato avevo comprato il pacchetto. mi ha più sentito, io non l'ho più sentito, Marco, ma quello sempre anche in piedi, non mi è mai capitato la verità, Che è fermato? Perché così è proprio, vabbè, quando me lo vai te lo aspetti, sì, lo troverai, in prezzo faccia 123 ne ho 4, toccai ne ho 4, cioè in faccia 100 ne ho 2, se è capito quello, una cosa, si vede che a Sassari ne sono arrivati pochi, poi la gente comprava i 23 canali, già, e quindi era una cosa, diciamo, già... che ne accusavo un po', poi a me mi ha affascinato, era bellino, poi il prezzo va fatto più di così, ha detto non posso spendere, ed è andato comunque. Io vi saluto, mio padre, perché qui l'orologio mi segna le 11:37, quindi si è fatto un'ora tarda, non so se Gianni è rientrato, e niente, adesso vi lascio a Gianni, se ci ascolto il finalino e poi faccio il tour di TSK, perché salita anche la 50, per andare a letto non vorrei restare di scolpo, e lascio il mic, Gianni, se sei rientrato. Bertà, riprendi tu. Scusate, ho sbagliato mic. Ho preso il bacco del nostro baracchino, capito, scusate, ma qua ce ne sono 3-4 di apparati. Ok, io stavo facendo per Paolo che ne approfitto per chiudere il tutto, che qui ho visto un orologio già andando verso la mezzanotte, andando, e perché salta anche la 50, quindi se parlo vi posso mettere le cuffie per la recensione, però la voce mia già, lo sai che rimbomba dappertutto. E diciamo che è stato un piacere, oggi è stata una bella domenica, ho fatto parecchi QSO con lui e questo mi fa sempre molto piacere, perché ci scambiamo delle opinioni, ci passiamo l'ora a farci la chiacchierata, ed è molto bello quando la frequenza rimane sempre così con delle persone come voi che sono piacevoli ad ascoltare, anche se non urlo, perché molte volte faccio quei ricchi di ascolto e mi piace anche a fare ascolto. Allora saluto Antonio, saluto Gianni e saluto Pierpaolo. Rimetto il cambio a Gianni di nuovo, mi tocca sistemato il microfono per il finalino. Ehi, ciao capito, ha fatto piacere anche a me sentirti, dai, ci sentiamo, una buona nottata. Avanti Piri. Papà, Capri2, se la riascoltiamo tutta domani, ti auguro una buona notte, una buona giornata per domani, e ce la risentiamo tutta quanta, dai. Ciao, una buona notte, avanti a Giulio. Capa, sottoni, Capri2, dai. Ce la risentiamo domani alle prossime. Buonanotte. Allora, sicuramente non l'hai ascoltato, Antonio. Ti rimando io saluti da parte sua, dai. E ti auguro una buonanotte, una buona giornata per domani, dai. Ciao, buonanotte. Ciao. Sì, dai, anche io me la chiuso e me ne vado a nanna, perché domani ti aspetto una giornata del lunedì. Ok. Ciao Carlo, buonanotte, ci riascoltiamo domani, se coincide domani sera. Ciao ciao, buonanotte. Buonanotte, ciao, ci sentiamo, Pierpa. Buonanotte anche a te, buonanotte anche a Antonio, intanto sono più anch'io, va. Ciao ciao, domani, se coincide ci sentiamo. No, ci sentiamo domani alle prossime, ciao ciao. Ciao. Cambio. Ciao. Parla piano perché c'è gente addormentata. Good night.